Mango Tart legge Manacled di Sen Lin Yu. Capitolo 6. Hermione non disse nulla. Si limitò a guardarlo. Era sollevata dal fatto che non stesse tremando. Si costrinse a incontrare il suo sguardo, ricordando a se stessa che doveva solo sopportare per un po', solo fino a quando avrebbe potuto formulare un piano. Poteva sopportarlo, l'avrebbe fatto. Era incerta su cosa fare. Si aspettava che andasse a sdraiarsi sul suo letto. Lui la superò a grandi passi fino al guardaroba e, dopo aver appoggiato la mano sull'anta per un momento, la aprì di scatto. Forse non era proprio un monaco. L'armadio conteneva quasi un'intera stanza al suo interno. Sull'anta c'era un vero e proprio tavolo da bar, da cui Malfoy prese una bottiglia di fire whisky ed estrasse il tappo con i denti. Sputando il tappo sul pavimento, si portò la bottiglia alle labbra e la fissò. Hermione aspettò e basta. Dopo un minuto, lui estrasse la bacchetta e con un rapido movimento evocò un tavolo al centro del pavimento. Hermione lo fissò, del tutto confusa. Poi fissò Malfoy. Lui sogghignò. «Piegati», disse con voce bassa e provocatoria, gesticolando verso di esso. Non pensava di potersi sentire più disgustata da lui, ma a quanto pareva era possibile. Si morse l'interno del labbro finché non sentì la pelle cedere e il sangue inondarle la lingua, mentre i piedi cominciavano a obbedire automaticamente. Si avvicinò lentamente e, dopo aver esitato un momento, si appoggiò al tavolo. Il legno le toccò le ossa dell'anca. Appoggiò le mani contro i bordi e li impugnò fino a che le nocche non le fecero male per la forza. Lottò per non tremare. Tutto il suo corpo era al limite per l'intensità della sua vulnerabilità. Forzò le orecchie a percepire qualsiasi suono. Ci fu una pausa. Poi sentì Malfoy avvicinarsi lentamente a lei. Lui le si fermò dietro e ci fu un altro silenzio. Poteva sentire che la stesse guardando. L'aria si spostò. «Sei ancora vergine, sangue sporco. Te lo ricordi almeno questo?» Lei trasalì quando si rese conto che non lo sapeva. Si avvicinò di più. «Sono sicuro che Weasley o Potter ce l'abbiano fatta ad un certo punto.» Poteva sentire la derisione nel suo tono. Posò brevemente la mano sulle reni di lei mentre le tirava le gonne fino alla vita. Sentì l'aria fredda della sua stanza contro la pelle. Tremava così tanto che anche il tavolo stava tremando. «Beh, suppongo che lo sapremo presto», disse lui e poi comandò: «Allarga i piedi». Si costrinse a spostarsi. Sentì le sue dita su di lei e si scostò leggermente. Lui mormorò qualcosa e lei sentì qualcosa di caldo e liquido dentro. Un incantesimo di lubrificazione. Sobbalzò così bruscamente che le gambe del tavolo stridettero, spostandosi sul pavimento di legno. «Non possiamo permetterci danni o infezioni che compromettano la tua utilità», spiegò lui in tono derisorio. Sentì la cintura scattare e poi, senza preavviso, la impalò con se stesso. Cercò di reprimere il singhiozzo che si fece strada nella sua gola, ma l'improvvisa invasione la prese alla sprovvista. Al suo grido lui si bloccò, solo per un momento, prima di ricominciare a muoversi. A parte il punto in cui erano uniti, non la toccò. La sua mano destra afferrò il tavolo vicino a dove aveva il viso. Lei poté vedere un anello nero sulla sua mano, che scintillava debolmente. Quando venne, il suo movimento divenne irregolare e più ruvido, e poi si fermò improvvisamente, con un sibilo. Rimase lì solo un secondo prima di allontanarsi da lei e tornare verso l'armadio. «Vattene», Il suo tono era tagliente. Hermione si scosse. «Non posso!» Cercò di non singhiozzare mentre lo diceva, ma le tremava la voce. «Non mi è permesso di muovermi per 10 minuti, dopo!» Lui ringhiò con rabbia. Improvvisamente il tavolo sotto di lei svanì e lei precipitò sul pavimento, battendo bruscamente la fronte a terra. «Vattene!» La stanza tremò. Tirandosi in piedi, lei fuggì. Inciampò stordita nel corridoio, cercando di ricordare la strada del ritorno. Il sangue le riempiva gli occhi. Poteva sentire il fluido che le usciva tra le gambe e colava lungo le cosce. Tremava. Cercava di ricordare dov'era la sua stanza. Se fosse rimasta lì, Astoria l'avrebbe trovata e le avrebbe cavato gli occhi, o le avrebbe tagliato le dita, o strappato i denti. Inciampò e quasi cadde giù per le scale. Fece respiri brevi e rapidi mentre cercava di evitare di singhiozzare ad alta voce. Non riusciva a capire. Era sopravvissuta alla guerra. Aveva visto i suoi amici morire davanti a lei. Era rimasta sana di mente sola in una cella buia per oltre un anno. Ma essere costretta a essere complice del suo stesso stupro non poteva sopportarlo, non sapendo che ci si aspettava che lo facesse di nuovo il giorno dopo, e il successivo, e il giorno dopo ancora. Fissò vertiginosamente l'atrio. Se si fosse buttata dalle scale, Malfoy non avrebbe potuto fermarla. Sarebbe finita. Si chinò e guardò il pavimento dell'atrio. Solo un po' più in là, una presa simile a una morsa si chiuse intorno al suo braccio e la tirò via. Si voltò e trovò Malfoy che la fissava infuriato. «Non osare!» ringhiò lui, il volto bianco dalla furia. «Per favore, Malfoy!» singhiozzò. «Ti prego!» Lui la trascinò giù per le scale e attraversò la casa mentre lei piangeva. Sfondò praticamente la porta della sua stanza mentre la trascinava dentro e la spingeva sul letto. «Evanesco!» scattò, puntandole la bacchetta sul viso, e improvvisamente il sangue nei suoi occhi svanì. Le fece poi un incantesimo di guarigione e rimase lì a fissarla con una furia senza veli. «Pensi davvero che non me ne accorgerò quando cercherai di ucciderti, sangue sporco?» chiese infine dopo che lei smise di singhiozzare. «Lasciamelo fare», disse lei. La sua voce era legnosa, il petto continuava a tremare. «Sono sicura che ti daranno una nuova sangue sporco da mettere incinta. Anche tu mi odi, Malfoy. Vuoi davvero che io sia la madre dei tuoi figli? Che veda la mia faccia in loro? Sono sicura che riuscirai a trovare una scusa convincente per uccidermi». Malfoy fece una risata abbagliante. «Se fosse così facile ti ucciderei subito. Per la prima volta nella tua vita sembra che tu abbia sottovalutato il tuo valore. Il signor Oscuro è piuttosto ansioso di vedere che tipo di prole produrremo. Una volta che avrai partorito qualche erede per me, intende mandarti in giro e vedere che figli avrai con gli eredi di altre famiglie di maghi. Voi piccole fattrici siete merce preziosa. Il signor Oscuro ha un intero programma di allevamento, pianificato per diverse generazioni». Hermione lo fissò con orrore. Lui si avvicinò di più, l'espressione minacciosa. «E non dimentichiamoci dei tuoi ricordi. Il fatto che ci sia qualcosa che hai considerato degno di essere nascosto anche dopo aver perso la guerra è motivo di preoccupazione. Finché non saprò il perché, tu non morirai. Tuttavia, quanta libertà hai in questa casa e quanto spesso devo sorvegliarti per assicurartela. Saranno le tue piccole contemplazioni suicide a deciderlo». Hermione rimase seduta lì, congelata. In qualche modo aveva dato per scontato che Malfoy sarebbe stato la fine per lei, che sarebbe stata costretta a fare un figlio e poi lui si sarebbe sbarazzato di lei. Non le era venuto in mente che era destinata a passare da una famiglia all'altra finché il suo corpo non avesse ceduto. Malfoy si guardò intorno alla sua stanza e poi di nuovo verso di lei. Aveva il viso teso e gli occhi di acciaio. «Beh», disse sospirando, «non avevo intenzione di farlo subito dopo averti scopato per la prima volta, ma sono già qui e non ho altri piani per la serata. Non c'è un momento migliore del presente. Vediamo esattamente cosa sta succedendo in quella tua piccola mente, sangue sporco. Quante idee hai?» Prima che lei potesse rabbrividire, usò la punta della bacchetta per forzare il suo mento verso l'alto e i suoi freddi occhi grigi affondarono nella sua coscienza. Non si preoccupò dei suoi ricordi bloccati, andò direttamente al dopoguerra, alla sua prigionia, e da lì andò avanti. Hermione non lottò. Se avesse cercato di spingerlo fuori, avrebbe solo fatto più male, e lui si sarebbe comunque fatto strada con la forza. Crollò sul letto mentre il peso della mente di lui si conficcava nella mente di lei. Contrasse involontariamente le dita, ma per il resto rimase immobile. Malfoy scivolò velocemente attraverso tutti i lunghi, silenziosi, solitari mesi e poi si mosse lentamente una volta che fu trascinata fuori dalla cella, torturata, pietrificata e poi ritorturata per non essere schiantata quando fu mossa di nuovo. Prese nota della sua conversazione con Anna e della descrizione del guaritore della mente delle condizioni di Hermione. Osservò le tecniche che Voldemort e Piton avevano usato per cercare di penetrare nei suoi ricordi bloccati. Era particolarmente interessato ai suoi complotti per uccidersi o fuggire. Poteva sentire il suo condiscendente divertimento su chi lei avesse teorizzato che Lyriv potesse essere, come si era chiesta se poteva approfittare di lui e farsi uccidere. Non riusciva a trovare un modo per strappargli o nascondergli i pensieri. Ogni volta che riusciva a raccogliere più di un brandello di magia, sentiva il rame delle manette strapparglielo via. Prestò molta attenzione alle manette, le compulsioni che vi erano state poste. La ragazza che urlava e che aveva quasi preso a randellate qualcuno fino alla morte. L'arrivo di Hermione al Manor e la sua reazione quando l'aveva visto. Alle sue teorie su se stesso e a storia. Poi la sua attenta esplorazione della stanza e gli attacchi di panico quando cercava di fare un passo nel corridoio. Ci mise ore. Analizzò ogni dettaglio, tutte le torsioni, i dubbi, le domande e le teorie nella sua mente. Alla fine, quando arrivò al ricordo di Astoria che entrava in camera da letto per recuperarla quella sera, si ritirò. Era apparentemente disinteressato all'idea di assistere alla sua prospettiva di essere violentata da lui. Si sentiva come se le avesse schiacciato il cranio. A malapena si mosse mentre lui rimaneva in piedi a fissarla. «Così tanti piani», disse lui mentre si raddrizzava e inclinava la testa all'indietro, valutandola con occhi freddi e beffardi. «D'altra parte mi sentirei deluso se non ne stessi progettando almeno uno per cercare di uccidermi e fuggire. Non vedo l'ora di vedere cosa ti inventerai la prossima volta». Si chinò sul letto finché il viso crudele fu a un soffio dal suo. «Pensi davvero di potermi ingannare e farti uccidere?» Hermione distolse gli occhi dal suo viso e fissò il baldacchino. «Sentiti libera di provarci», disse con un sorrisetto. «Non appena riuscirei ad attraversare quella porta da sola». Poi si raddrizzò di nuovo e tutto l'umorismo scomparve dal suo viso. «Stai fuori dalla mia stanza. Non voglio trovarti di nuovo lì dentro. Verrò a farlo qui». Sogghignò verso di lei. «Farò apparire un tavolo, così saprai quando aspettarmi». Girò i tacchi e se ne andò senza un'altra parola. Hermione non si mosse. Non quando la porta si chiuse. non mentre le lancette dell'orologio ticchettavano inesorabilmente, indicando che erano le 3 del mattino passate, non quando prese coscienza della sensazione di qualcosa incrostato sulle cosce, della leggera crudezza tra le gambe e del dolore sconosciuto nel basso ventre. Rimase semplicemente sdraiata lì. C'era una volta una ragazza che aveva combattuto, che credeva che i libri, l'intelligenza, l'amicizia e il coraggio potessero superare ogni cosa. Ma ora quella ragazza non c'era più. Era stata quasi uccisa durante la guerra. Ora Draco Malfoy aveva ridotto quella ragazza in polvere nel corso di una serata. Aveva violentato fisicamente e mentalmente fino all'ultimo brandello di quella ragazza. Giacque e fissò il baldacchino del letto. Non aveva riposto molta fiducia nei suoi piani. Sapeva che le sue probabilità erano impossibilmente basse, ma ora lo scherno di Malfoy aveva suggellato il senso di sconfitta che provava. Non si mosse. Quando arrivò il mattino, non si svegliò. Fu nel tardo pomeriggio che finalmente si trascinò via dal letto e si fece un bagno. Malfoy l'aveva appena sfiorata, ma lei strofinò comunque ogni centimetro di se stessa nel tentativo di eliminare ogni traccia di lui. Nel processo scoprì una sottile cicatrice in rilievo sulla gabbia toracica che non ricordava di avere, così come deboli segni di cicatrici che le chiazzavano il polso sinistro e la parte superiore del petto. Li ispezionò tutti con attenzione, ma non riuscì a ricordarsi come e quando se le fosse fatte. Non pensava di essere stata ferita molto durante la battaglia finale. Non aveva partecipato a nessuna incursione per diversi anni prima della fine della guerra. Mentre si esaminava di nuovo il polso, passò in rassegna nella sua mente di tutte le maledizioni che conosceva e che potevano causare una tale cicatrice. Era una lista lunghissima. Malfoy aveva creato una divisione del suo esercito specificatamente dedicata a sviluppare nuove maledizioni. Non riusciva a ricordare una battaglia che non avesse avuto vittime, semplicemente perché non era riuscita a identificare tutte le nuove maledizioni abbastanza velocemente da contrastarle. L'acqua divenne fredda, ma non si alzò finché non cominciò a tremare. Quando tornò in camera da letto, trovò che il pranzo era stato lasciato per lei. Lo mangiò svogliatamente. Si avvicinò alla porta e rimase tremante davanti ad essa per diversi minuti prima di voltarsi. Fissò il freddo e nebbioso paesaggio del Wiltshire fuori dalla finestra. Premendo la fronte contro il vetro, assaporò il dolore acuto e gelido che affondava nella sua pelle. Desiderava che affondasse abbastanza da intorpidirla mentalmente. Non sapeva cosa fare se non crearsi altri piani futili. Non c'era altro da fare, nessun libro da leggere, niente per occupare la sua mente se non tutti quegli incantesimi, problemi di aritmanzia e ricette di pozioni che aveva già recitato a se stessa 1000 volte. Non si era resa conto del confortante oblio che veniva dal non vedere e dall'udire a malapena in un nulla senza tempo. Stare di nuovo in piedi nel mondo reale generava un senso di disperazione più acuto persino della sua eventuale accettazione della cella. Rendersi conto di come era stata ridotta, di quanto fosse impotente a combattere le circostanze, scoprire che nessun libro che aveva studiato o incantesimi che aveva imparato offriva alcuna soluzione per le sue circostanze. Non sapeva come uscirne. Non sapeva nemmeno come fare per superarlo. Voleva solo morire. E anche quello sembrava del tutto irraggiungibile. Il tavolo apparve nella sua stanza esattamente alle 7:30 di quella sera. Aveva fatto il bagno solo poche ore prima. Quindi si limitò a fissarlo, facendosi forza, considerando. Almeno era impersonale. per quanto fosse umiliante e orribile, almeno non doveva guardare Malfoy quando lo faceva. Non doveva toccarlo. Non voleva vederlo. Un minuto prima delle 8 si avvicinò e si appoggiò al tavolo. Allargò i piedi e girò il viso in modo da poter guardare l'orologio. Quando la porta scattò, non si mosse. Malfoy non disse una parola. Si avvicinò e si fermò dietro di lei. Le mani di Hermione cominciarono a tremare, ma lei si rifiutò di muoversi. Non voleva guardarlo. Strinse gli occhi e cominciò a recitare incantesimi di guarigione, i più lunghi e complessi che conosceva. Visualizzò il movimento della bacchetta nella mente. Lui le tirò su la gonna e lei sentì il tremore nelle sue mani diffondersi a tutto il resto del suo corpo. Sentì l'incantesimo mormorato, calore e liquido. Strinse i denti quando sentì un pungolo tra le gambe. Quando sprofondò dentro di lei, tremò, ma non pianse. Quando cominciò a muoversi, cercò nella sua mente qualcosa, qualcosa di nuovo, qualcosa a cui non avesse già pensato fino alla morte. I versi di una poesia le vennero lentamente in mente. Sentivo un funerale nel cervello e i dolenti avanti e indietro. La continua sensazione di movimento dentro di lei ritrascinò la sua attenzione alla realtà. Digrignò i denti e lottò per ricordare le righe successive. Ricominciò da capo. Sentivo un funerale nel cervello e i dolenti avanti e indietro. Andavano e andavano finché sembrò che il senso fosse frantumato. Il ritmo del movimento cambiò e lei si sforzò disperatamente di ricordare le parole successive. Che il senso si fosse frantumato. E quando furono tutti seduti, una funzione, come un tamburo, batteva, batteva, finché pensai la mia mente si fosse intorpidita. Malfoy venne all'improvviso mentre lei cercava di ricordare la battuta seguente e si allontanò bruscamente. Lei non si mosse. Un momento dopo sentì la porta scattare ancora una volta. Cercò di ricordare il terzo verso della poesia, ma era oltre la portata della sua memoria. Pensò, ricordavo una poltrona e un libro di poesie, braccia confortanti che avvolgevano una Hermione bambina e le mani di una donna che sfogliavano una pagina, una voce che non riusciva più a ricordare. Sua madre. Pensava che fosse stata sua madre a insegnarle quella poesia. Aprì gli occhi e fissò l'orologio.